Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Questo ritornello quasi sicuramente l'avete cantato anche voi qualche volta, anche solo per ridere con gli amici, ma l'avete cantato. Magari non sapevate neanche cosa fosse, ma l'avete cantato. Ormai è diventato una consuetudine nelle competizioni calcistiche, l'abbiamo sentito la prima volta nel 2006, nell'Italia di Buffon, di Cannavaro, l'Italia che vince il mondiale, poi è andato avanti e negli stadi anche quando giocano le squadre di club, e poi altre nazionali che ce lo rubano, perfino la Francia ce lo ruba, lo cantano e gli porta male perché non vince il mondiale. Ma insomma, questa canzone non è una canzoncina da niente inventata in gradinata, è un pezzo fantastico che è stato premiato con un Grammy come migliore canzone rock. E il pezzo si chiama Seven Nation Army e dei White Stripes, ed è dei White Stripes che oggi sto per parlarvi. White Stripes, una delle band che hanno rivitalizzato il rock degli anni 2000, che ha ridato carica, energia alla musica americana, ha fatto ricordare a tutti che non ci sono solo i mostri creati nelle sale iper sofisticate di questi anni in cui tutti sono bravi, ma c'è anche una musica sporca, dura, essenziale, fatta con uno spirito live e non con i Pro Tools. E a dispetto di tutto questo, questa musica riesce anche a ottenere un successo enorme, nonostante le previsioni catastrofiche della stessa band. I don't think it's ever going to be big like we're going to be playing arenas or anything like that. Non credo diventeremo mai famosi come quelli che riempiono grandi stadi e quelle cose lì. Non potremo, non è possibile. Non scriviamo il tipo di canzoni che arrivano in testa alle classifiche e cose così. Top 40 hits or anything like that. Sì, come dice il mio regista Luigi Speciale, gli stadi li hanno riempiti centinaia di volte, magari loro erano in casa loro, ma qualcuno la stava cantando la loro canzone. Questa è una dichiarazione fatta da Jack White in un documentario di qualche anno fa che parlava della scena musicale di Detroit. Per anni Detroit, la città che sta sul lago Michigan, è stata famosa per essere il maggior polo automobilistico del mondo, ma è una delle città che è stata più importante per la ricchezza della sua vita musicale, perché oltre alla Ford, alla Chrysler e alla Dodge c'è stata la Motown, c'è stata la Fortune Record, e poi a Detroit sono nati Alice Cooper, Eminem, Sonny Bono, Madonna è nata non molto distante da lì, e poi ci sono nati i Kiss, che hanno anche scritto Detroit Rock City. A Detroit nascono anche Jack e Meg White, cioè i White Stripes. E partiamo da lui, da Jack White, che nasce il 9 luglio del 75 e si chiama John Anthony Gillis. È il decimo e ultimo figlio di una coppia molto cattolica, perché se non sei molto credente ti fermi un po' prima del decimo figlio e trovi un altro modo per divertirti. Comunque la madre è di origine polacca, il padre è canadese e scozzese, entrambi lavorano per l'arcidiocesi di Detroit. Lui viene chiamato John come San Giovanni Battista, e come tutti i bambini cattolici di famiglie devote fa il chierichetto e finisce per recitare in un film dell'epoca I delitti del rosario con Donald Sutherland. Insomma, non c'è niente di strano se a lungo lui considera addirittura l'ipotesi di farsi prete. Per molto tempo ho pensato di farmi prete. Ero stato accettato dal seminario ed ero pronto ad andarci. Ho sempre pensato che se ti devi impegnare in qualcosa, ti devi impegnare in maniera rigorosa, quasi come un monaco. Devi essere devoto al 1000% a Dio e non solo un pochino. Ma a quei tempi ero un po' confuso e quindi mi dissi che se non potevo impegnarmi in modo totale, allora era meglio se non lo facevo. Ma a parte che oggi molti non ti chiedono di essere devoto al 1000%, basta che tu lo sia all'8 per 1000. Comunque, nonostante sia stato accettato in un seminario nel Wisconsin, alla fine lui rinuncia ad andarci perché gli hanno regalato un amplificatore e ha paura che non glielo lascino portare. forse l'unico aspetto positivo di avere così tanti fratelli più anziani, anche di 20 anni, è che si finisce per ereditare gli strumenti musicali di famiglia. Così a 11 anni lui inizia a suonare una batteria ricevuta da un fratello. A poco la sua camera da letto comincia a riempirsi di così tanti strumenti che sceglie di dormire su un materassino in corridoio piuttosto che rinunciare anche a uno solo di questi strumenti. E dopo la batteria arriva la chitarra. E lui da bambino ama la musica classica, ma in una città come Detroit è difficile non restare influenzato dalle correnti musicali che attraversano la città. Ma più che di hip hop, di techno, di rhythm and blues, a Jack piace il buon vecchio blues. Siamo cresciuti in un quartiere meticcio, pieno di neri e messicani. I nostri compagni di scuola ascoltavano molto hip hop e non per niente Eminem è di Detroit. Io però non sono mai riuscito ad apprezzare quel tipo di espressione, come neanche sono mai stato totalmente catturato dalla furia anarchica degli MC5. A me piacciono le regole. Forse a causa anche della confusione di una casa con 10 figli e alcuni così grandi che possono fare da genitori ai più piccoli, Jack sente il bisogno di una struttura rigida che lo rassicuri. Vuole delle regole. Non riesce ad andare in seminario, però al liceo si distingue perché, a differenza degli altri ragazzi, studia, non commette follie, non gli piace l'hip hop. Per una scuola a prevalenza nera, diciamo che questa non è una buona credenziale per diventare amico di tutti. Il falco e il gabbiano. I White Stripes non hanno ancora preso il volo, ma Jack White intanto sta continuando la sua educazione musicale. È già un polistrumentista e a 15 anni comincia a lavorare, diventa apprendista tappezziere da un amico di famiglia, ma al suo datore di lavoro piace il punk, così mentre lavorano trascorrono le giornate ascoltando anche i gruppi più famosi. Insomma, la mappa musicale di Jack si sta allargando. Intanto la sua vita si snoda tra scuola e bottega e intanto mette su anche una sua attività come tappezziere, la Third Man Upholstery, ma sembra più interessato ai dettagli che al lavoro vero e proprio. Crea delle divise, sono gialle e nere, va in giro con un pulmino giallo e usa solo attrezzi gialli e neri. Non mi importava fare i soldi. Ero già felice di arrivare davanti alla casa di qualcuno indossando una divisa di colore giallo e nero e con una cartelletta gialla. Lo slogan della piccola impresa è: il vostro divano non è morto. E forse per aiutare il divano a riprendersi, lui nasconde nei divani che ripara dei piccoli biglietti con sopra scritta una poesia. E intanto iniziano le sue prime esperienze come musicista. Con il suo ex capo formano la band I Tappezzieri, però dura poco. E poi proseguono e nascono collaborazioni con altri gruppi. Insomma, è sempre più chiaro che la musica è la cosa più importante per Jack, uno dei perni della sua personale trinità. Ho tre padri: il mio padre biologico, Dio e Bob Dylan. Ma anche in questi tipi di trinità poi ci vuole una figura femminile e nella metà degli anni 90 si aggiunge una barista timida, molto silenziosa, Meg White, l'altra metà dei White Stripes. Meghan Martha White nasce da una solida famiglia borghese che vive nei sobborghi di Detroit. Non si sa molto di lei, ci sono poche interviste. È famosa fin da piccola per la sua timidezza e i suoi compagni la ricordano molto silenziosa, un tipo artistico che parla poco ma che lascia intuire che la sua mente sia piena di pensieri. L'unico momento in cui lei stupisce tutti è quando decide di non andare all'università dopo il diploma. Vuole diventare chef. Con quest'idea inizia a servire ai tavoli di un caffè in città e qui nel 1994 incontra Jack. Così Meg e Jack cominciano a frequentarsi, vanno insieme ai concerti, entrano in negozi di dischi. Dopo un anno, nel 1996, i due decidono di sposarsi. Jack ha 21 anni, Meg 22, e col matrimonio, fedele un po' anche alla sua eccentricità, Jack sceglie di prendere lui il cognome della moglie e nello stesso periodo comincia a sviluppare una fascinazione particolare per il numero 3. Il numero 3 esemplifica l'iconica, misteriosa perfezione che non può essere ottenuta altrimenti. Un tavolo deve avere almeno 3 gambe, altrimenti cade. Un semaforo ha 3 luci, la ruota di una macchina può stare su con 3 bulloni. Si potrebbe continuare all'infinito. Ci sono questi 3 elementi in ogni cosa e se riesci a capire quali essi siano in ogni struttura, allora sei sulla strada giusta. Anche adesso continuo a pensarci tutto il tempo. Quando scrivo una canzone, devo costruire una struttura e la devo costruire su questa cosa. E quando comincia a farsi strada l'idea di creare una band, Jack costruisce la sua struttura proprio attorno al numero 3. 3 elementi, e 3 elementi che non possono mancare in una band: la voce, la batteria e uno strumento che dia l'armonia, possibilmente la chitarra. Quindi voce, chitarra, batteria, nient'altro. Nel 97 nascono i White Stripes. La leggenda vuole che il giorno esatto di nascita, diciamo, sia stato il 14 luglio, la presa della Bastiglia. Quando abbiamo dato vita a questo progetto, volevamo davvero riprodurre in musica una sorta di sguardo innocente e bambino sul mondo, modulato dal fatto che siamo di sesso diverso. Direi che le tematiche riguardanti l'infanzia e i rapporti sono quelle che ci ispirano maggiormente e che rendono la nostra musica quella che è. Jack canta, suona la chitarra e lascia la batteria a Meg. Un piccolo dettaglio: prima di quel momento Meg non aveva mai suonato la batteria in vita sua, quindi sente Jack esercitarsi, prova lo strumento e i suoi primi tentativi denotano sicuramente orecchio musicale, però ovviamente una, come dire, una struttura molto povera, no? Questo però diventa una cifra stilistica perché il suono somiglia a quello fatto da un bambino. È vero. E si vede dal modo in cui suono la batteria. Pur rispettando i virtuosi dello strumento, io amo i ritmi basilari, ridotti all'osso, semplici e sostanziali come il battito di un cuore calmo o impaurito. All'inizio il nome della band avrebbe dovuto essere i Peppermints, cioè le caramelle preferite di Meg. Poi un giorno però Jack vede delle caramelle con una spirale rossa e bianca, decide che quella è l'immagine perfetta da mettere sulla cassa della batteria di Meg. I White Stripes sono ufficialmente nati. Il falco e il gabbiano. White Stripes, una delle migliori band degli ultimi 20 anni. È potente, è essenziale, è un rock puro senza orpelli, assolutamente innovatrice la formula già dalla scelta degli elementi: voce, chitarra e batteria, il tutto in 2 persone, i coniugi White. White che peraltro è il nome di lei, quindi tutto strano, tutto al contrario. La loro è una musica apparentemente semplice, volutamente essenziale. Well, we started the band in 97. Abbiamo iniziato con la band nel 1997. Era quasi uno scherzo. Io suonavo la chitarra, Meg suonava in qualche modo la batteria, quasi da bambino. Prima non aveva mai suonato. Eppure usciva fuori qualcosa di molto interessante. E da allora per me è diventata una specie di ossessione. Non volevo che cambiasse. Non volevo neanche migliorare. Volevo che continuassimo a suonare come dei bambini. Come abbiamo visto, l'altra ossessione di Jack è il numero 3. Attorno a questo numero vuole costruire la sua band ed è una persona palesemente, insomma, ossessionata da alcune cose. Quindi anche lo stile deve essere preciso, i vestiti e le copertine dei dischi, tutto deve rispondere alla sua folle ma lucida logica. Eravamo decisi a limitarci a restare solo 2 elementi base del gruppo. In un certo senso abbiamo ruotato sempre intorno al numero 3, come per i 3 colori, rosso, bianco e nero. Ma anche limitarsi a voce, chitarra e batteria è stata una scelta precisa, quella di limitarsi. Credo ci sia maggiore creatività quando ci sono meno opportunità. Eh sì, abbiamo visto che Jack White è uno che ama le regole, è ossessionato dalle regole. Lui crede veramente che solo dentro alle regole, alle limitazioni, ai perimetri stretti, al minimalismo sia possibile creare qualcosa di veramente importante. E le costrizioni acuiscono la creatività, la censura, l'autocensura porta l'artista a trovare altri spazi, altri modi di esprimersi. E nessuno come Jack riesce a essere così stimolato dalle limitazioni, e lo dimostra anche la sua musica. Lui abolisce il basso e abolisce il basso, non lo userà mai, è costretto a trovare alternative sonore, soluzioni innovative. Non ci vedo nessuna bellezza su come la musica pop viene registrata tutta con computer e nella presentazione un po' plasticosa. Faccio del mio meglio per combattere quest'idea, cercando di presentare le cose che faccio in un modo più vicino alla bellezza, all'integrità, ma ultimamente è sempre più difficile. E poi c'è l'immagine, e ovviamente anche per scegliere l'immagine bisogna autoimporsi delle limitazioni. Per esempio, i colori sono solo tre: rosso, bianco e nero. I vestiti utilizzati, le copertine dei dischi, i colori utilizzati nei video, tutto quello che riguarda la loro immagine deve prevedere la possibilità di utilizzare solo questi tre colori. E a dar ragione al concetto che le limitazioni producono meraviglie, il risultato effettivamente è di grande effetto. E poi c'è un'ultima bizzarria da dire, e la relazione tra Jack e Meg viene in un certo senso tenuta nascosta, perché dalla nascita della band i due si presentano come fratello e sorella, e questo tutti avevamo creduto per anni. Poi un giorno escono fuori i documenti che attestano il matrimonio e poi nel 2000 il divorzio. Ma la cosa non sembra preoccupare Jack, che sostiene imperturbabile la scelta. Se ci fossimo presentati in un altro modo, come ci avrebbe percepito la gente? Così, sulla botte. Quando vedi una band formata da due persone che sono marito e moglie o fidanzato e fidanzata, si pensa: ah, capisco. Se invece sono fratello e sorella, allora pensi: ah, interessante. E si sta più attenti alla musica e meno al rapporto. Ragazzi, questo è vero, questo è un'annotazione assolutamente precisa su come funziona il mondo della musica. E così i due fratelli non fratelli si esibiscono per 2 anni per i locali di Detroit, si costruiscono una bella fama, anche se ancora solo a livello locale. Poi nel 99 esce il loro primo album, The White Stripes, pubblicato con una etichetta indipendente di Detroit che curiosamente si chiama Italy Record. In realtà lui aveva già firmato con un'altra etichetta, ma non se ne fece niente perché, sentite, perché i produttori volevano mettere il loro piccolo logo verde sulla copertina del disco, e questo rischia di non fare mai un disco, mandando al diavolo questa etichetta, semplicemente perché ci sarebbe stato un puntino verde all'interno del suo progetto bianco, nero e rosso. E se un produttore non capisce una cosa così importante, chissà quali altri danni avrebbe potuto fare da lì in avanti, no? Il rosso, il bianco e il nero formano la più potente combinazione di colori di ogni tempo, da una lattina di Coca-Cola alla bandiera nazista. È vero anche questo. Comunque il disco non vende moltissimo, però viene accolto molto bene dai critici. Intanto loro divorziano, ma questo non influisce sulla coppia musicale, figuriamoci uno così rigido se si fa travolgere dai sentimenti. A ogni concerto loro sembrano sempre più uniti, le scelte musicali sono condivise, e magari c'è solo il fatto che hanno due personalità differenti. Lei, Meg, è una specie di sfinge silenziosa, raramente esprime un parere, ha una timidezza quasi patologica. La cantante country Loretta Lynn, alla quale lui produce un disco, quando la vede la prima volta pensa addirittura che abbia qualche problema. E Jack è tutto il contrario, è irrefrenabile, parla, è ipercinetico, si muove, scrive le canzoni, anche se poi è Meg che contribuisce a trovare il sound con la sua batteria così scarna ma così efficace. Non so bene come nascano le nostre canzoni. Una volta Michael Jackson disse che si deve lasciare entrare Dio nella stanza. Credo sia vero. Devi stare lì e abbandonare ogni genere di controllo. Perché invece, quando si scrive musica, si tende a sentirsi come quello che ha il controllo, quello che deve far sì che tutto questo accada, una specie di mago. Ma in realtà non è proprio così. Devi stare lì e comportarti come se fossi una specie di antenna che lascia che le cose accadano attraverso di te. E più lasci che avvenga, più abbandoni ogni controllo e più diventa bello. È come se non avesse niente a che fare con te stesso. Eh sì, ha ragione anche qua, ti devi abbandonare a te stesso, le tue suggestioni quando scrivi. E intanto esce il secondo album che si chiama The Steel, che in olandese vuol dire lo stile, the style, insomma, è un riferimento a un movimento artistico fondato in Olanda nei primi del Novecento. Nella copertina Jack e Meg sono in una specie di quadro di Mondrian, ovviamente con i colori rosso, bianco e nero. E visto che loro non credono nell'elettronica, The Steel è registrato in analogico, anche questa volta grandi lodi e poche vendite, ma col tempo anche questo disco diventerà un classico. Nel 2001 esce l'album White Blood Cells e qui c'è un brano che ha un successo immediato, Fell in Love with a Girl. E in Inghilterra il famoso DJ John Peel, attratto dalla copertina, compra e fa passare il disco e grazie a lui scoppia una vera e propria White Stripes Mania nel Regno Unito, tanto che anche la famosa rivista New Musical Express li mette in copertina e cominciano i tour in giro per il mondo. Lo stile scarno intenso di Jack e Meg comincia a conquistare le platee. Quando sono solo al mio posto sul palco, faccio tutto quello che mi viene naturale fare. Succede come a un predicatore che predica dal suo pulpito. In quel momento è come se fosse pervaso dal potere dello Spirito Santo che lo aiuta a entrare in contatto con la gente. Ed è quello che succede anche a me quando sono sul palco. Cerco di allontanarmi da me stesso e di connettermi a loro in una maniera che abbia senso. Credo che quello che fanno i migliori musicisti sia proprio questo. Michael Jackson sta predicando, o James Brown, o Prince. Nel 2003 l'album seguente, che è Elephant, consacra i White Stripes definitivamente come una delle rock band più importanti del momento. Elephant diventerà disco di platino negli Stati Uniti, doppio disco di platino nel Regno Unito e nell'album c'è questa canzone, Seven Nation Army, e questa canzone in breve tempo diventa l'inno di tutti gli sportivi. Una delle nostre canzoni, Seven Nation Army, è diventata una cosa potente nei grandi stadi sportivi in giro per il mondo. Una cosa che non avremmo mai pensato accadesse mentre la stavamo scrivendo e registrando. Ed è buffo quando senti come utilizzano una tua canzone gli altri. È come se non ci avessi più niente a che fare. Su questo fatto sono circolate tantissime leggende e ci sono mille versioni, tra queste quella che la nazionale italiana durante i mondiali del 2006, ascoltando musica, avesse trovato questa canzone e quindi i vari Cannavaro e Compagnia Bella abbiano cominciato a cantarla, ma non si sa realmente perché in tutti gli stadi del mondo c'è questa meravigliosa e collettiva psicosi per la quale si canta po po po. Nel 2003 Jack ha anche una parte nel film Ritorno a Cold Mountain con Nicole Kidman e Judy Law, e sul set c'è anche René Zellweger e lui ha una breve storia con lei. Durante un viaggio in macchina hanno un incidente, Jack si rompe un dito, deve rinunciare al tour, i fan sono delusi e furibondi, Jack è costretto a una scelta drastica per calmarli. L'airbag dell'auto esploso di colpo mi aveva spezzato in due un dito, ma nessuno voleva crederci. In giro si diceva che mi fossi inventato questa storia per non andare in tour e riposarmi un po'. Allora ho messo l'intervento chirurgico a disposizione di tutti. Davanti alla mia mano sezionata dal bisturi, nessuno ha più dubitato. Beh, anche questo è un colpo d'ala, cioè usare i social nella maniera più diretta possibile. Ah, non credete che mi sono rotto un dito? Ecco qua l'intervento. Anch'io potrei mettervi in rete un paio di interventini che ho fatto in questi anni, ma so che invece voi mi credete se dico una cosa. Insomma, arriviamo al 2005, esce il quinto album della band, Get Behind Me Satan. Durante le riprese del video Blue Orchid, Jack conosce la modella inglese Karen Elson. È amore a prima vista, i due si sposano su una canoa in Amazzonia, hanno due figli e poi sei anni dopo si separano e lo fanno con un grande party per fare capire a tutti che rimarranno amici. Anche Meg qualche tempo dopo si sposa col figlio di Patti Smith, Jackson. E insomma, gente strana anche nelle scelte personali. Poi esce il sesto album, Icky Thump, nel 2007. I White Stripes imbarcano in un lungo tour in Canada, caratterizzato anche da piccole esibizioni estemporanee. Suonano in un centro per bambini, suonano nei mercati, in bowling, in un autobus. E poi dopo il Canada tornano in America per continuare il tour. Ma una sera Meg annuncia che suonare in giro le mette troppa ansia. Avverte che quello sarebbe stato il loro ultimo show. Così i due sono costretti a cancellare tutte le date previste nel Regno Unito. E allora Jack, durante la pausa che Meg ha richiesto, segue i suoi progetti. L'anno prima dell'uscita di Icky Thump aveva creato una nuova band, i Raconteurs, con i quali aveva inciso un album nel 2006 nominato ai Grammy tra i migliori album rock. Insomma, continua a fare musica con questa band. Nel 2008 esce un nuovo album del gruppo e riceve ancora una nomination ai Grammy. Ma visto che Jack è uno che non si stanca e si annoia, subito crea un'altra band, i Dead Weather. E poi nel 2009 Jack White si trasferisce a Memphis, dove trova un grande spazio per la sua Third Man Record, l'etichetta discografica che aveva fondato già nel 2001. Notate questa faccenda del Third Man, del terzo uomo, il numero 3, sempre presente anche se in trasformazione, da ditta di tappezzeria a produzioni musicali. La rivista Rolling Stone lo definisce il Willy Wonka del rock, perché come per il protagonista del film La fabbrica del cioccolato, tutto quello che Jack tocca in realtà si trasforma in un successo. Però ormai è solo, nonostante i ripetuti annunci di nuove registrazioni. L'ultima volta in cui Meg e Jack appaiono ufficialmente insieme come White Stripes è alla presentazione di un film, Under Great White Northern Lights, girato durante il loro ultimo tour in Canada. Il 2 febbraio del 2011 annunciano ufficialmente che il gruppo ha cessato di esistere. Da allora Jack White ha continuato la sua brillante carriera con due album solo, mentre Meg non ha più fatto sentire la sua voce d'artista, cioè l'unica roba che ci resta di lei è il cognome che ha passato all'ex marito. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno volato in alto nelle maniere più disparate, anche con un metodo maniacale come Jack White, riuscendo comunque a cambiare il corso della musica rock degli ultimi anni. Ognuno di noi può cambiare il corso di qualcosa, può cadere, ma può dare un colpo d'ala, può volare in alto. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite sui miei, sui nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani.